sai, di quanti metri si accorcia la lunghezza d'onda nel vuoto, tutto lì, mentre invece se è 0,66 è ancora più corta. Cosa significa? Che la lunghezza d'onda, anziché essere per dire di 11 metri, si accorcia di 34 metri nel vuoto. Non so se mi rendo l'idea tu, vabbè, comunque questo discorso magari può essere noioso per tanta gente, perché considerato che non ne parliamo mai di cose serie relative all'elettronica. Avanti Antu. Sono entrato. La differenza da chi su che va via prima, chi su che va già avanti, questa. La differenza sta che prima era 0,66 la velocità di trasmissione, adesso hai 0,81, e che significa che la tua portante, la tua lunghezza d'onda, l'hai accorciata di meno. Prima l'accorciavi di 34 metri nel vuoto, adesso fai la differenza da 0,81 a 100, sono 19 metri, sicché la differenza sta in quello. Mi sono spiegato, praticamente hai adeguato la lunghezza passante che c'è nel cavo a quella che è la caratteristica dell'antenna, ed è meglio della frequenza che stiamo usando, tutto lì. Vabbè, avanti qua. Claudio. Vabbè, si è allontanato di nuovo, va, riprendi, riprendi tu. Sì, un attimo, adesso vai via, riprendi. Caspita. Vuol dire che se magari in certi posti se arrivavo Santiago 1 posso arrivare 2 o 3, così è per dire, in lontananza. No, non è che ci sia questa grandissima differenza, però è significante anche quello, perché uno è avere una portante lunga, per dire, non so, che so io, ho 70 metri, tanto per fare un esempio, l'altro è avere la lunga, che so io, 60 metri, capito? Tu mi direi, ma va bene lo stesso, non è che non va bene, sia ben chiaro, però se dovessimo rimanere in linea, con quella che è la teoria della frequenza e della lunghezza d'onda, questo è importante. A parte il discorso che un cavo migliore, hai meno perdite anche, no? Perché se tu pensi che con un RG58 che hai una perdita di 8-9 decibel sulla lunghezza di 100 metri, su quella magari ne hai solo 4 decibel. Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu hai 4 decibel di consumo, cioè di perdita, su una lunghezza di 100 metri, se fai il calcolo, la proporzione, con i metri di cavo che hai tu, sai quanti decibel stai perdendo col cavo, mentre invece se lo fai con quell'altro cavo, sai sempre allo stesso modo quanti decibel perdi con l'altro cavo. Ecco, tutta lì la differenza. Non so se mi sono spiegato bene tu. Allora, ho capito. Chi è che voleva entrare? Ho sentito qualcuno sotto. E magari qualcuno non vuole entrare. Avanti, chi c'è che vuole entrare? No, non vuole entrare perché stiamo parlando di cose tecniche, no. E la gente si annoia. Si annoia, ma che non so quale motivo, comunque. Perché ancora non ho capito qual è il concetto della radio. Mi piace, perché volevo capire dove stava veramente la differenza, perché io non lo sapevo, capito? E appunto, sono cose, sembra così, tu mi dirai, ma non me ne frega niente di arrivare per dire Santiago 9 o arrivo magari Santiago 8 e va bene lo stesso. Certo che va bene, nessuno ti dice di no, ma se proprio uno vuole fare un impianto come si deve, certe considerazioni le deve fare, no? E allora sceglie dei materiali migliori, perché i materiali migliori sono e meno problemi avrai, se non ci sono dubbi. Ad esempio, io ho l'H1000, cosa vuol dire anche questo? Vuol dire che, ad esempio, l'H1000 è schermata al 100%, cosa vuol dire? Che spurie dal cavo stesso non ne escono. Come dirai, cosa fa? Che differenza c'è fra la Camille, ad esempio, è un RG58? Ma è semplicissimo. Siccome l'RG58 non è un cavo schermato abbastanza bene, supponiamo il caso che tu hai la discesa e cioè i tuoi fischi che ti stavo dicendo poco fa per la partita che è finita, vabbè lasciamo perdere la partita, ti stavo dicendo, supponiamo il caso che tu in facciata fai scendere un cavo RG58, mi stai seguendo Anto, vicino a te c'è anche un cavo di televisione oppure che so io un cavo di telefono eccetera, l'RG58 potrebbe dare fastidio per effetto pelle del cavo stesso alla televisione oppure alla telefono eccetera, mentre invece tutto questo perché la schermatura non è sufficientemente buona, se invece hai un cavo sufficientemente buono come schermatura, come quello ad esempio che ho io al 100%, anche se passi addirittura il filo dentro lo stesso tubo non succede niente, perché perdite di cosa non ne ha, mi sono spiegato Anto? Infatti notavo questa cosa qua, che l'RG58 dia che cosa, infatti con questo non è la stessa, appena la televisione battava, compreso, con questo no, con questo assolutamente. Hai visto, stiamo venendo a trovare i nodi al pittine, hai visto quello che ti sto tirando praticamente, tu stesso me lo stai confermando adesso, ripeto, un cavo schermato al 100% è sicuramente migliore di un cavo meno schermato, ad esempio quello che stai usando tu adesso è schermato all'85%, per cui è già una buona schermatura, non è il massimo, sia ben chiaro, però è un ottimo cavo lo stesso, capito? Mentre invece magari l'H1000, a parte il discorso che è meno flessibile eccetera eccetera, che costa di più, sta così di là, tutto quello che vuoi, però è schermato al 100%, ecco dove sta la differenza fra un cavo e l'altro. Ora se noi paragoniamo un RG58 che è schermato pochissimo, se non sarà avrà, che so io, 50% di schermatura, se ce l'ha anche, e ad un cavo che è schermato come quello che hai tu, all'85%, oppure come quello che ho io, che è schermato al 100%, ecco la differenza dove sta, in caso di calamità per le altre ricezioni, intendo TV, eccetera, capito Anto? Sì, io ho capito tutto, ecco perché molti fanno molto TV Rai, perché non c'è la schermatura, non c'è. Non avendo la schermatura va a rompere le scatole a televisione, a cose. La perdita è proprio il cavo, è proprio la perdita. Certo, perché non è solamente la perdita che hai tu con la quando schiacci la portante, non è solamente la perdita, è anche tutto il seguito che comporta, per dire, un cavo meno buono di un altro, è tutto lì o quanto. Magari se qualcuno ha raccolto, poi gli dice, vuoi fare un professore? Dice, no, io non voglio fare professore di niente e di nessuno. Mi sto spiegando queste cose perché io queste cose, prima di fare il mestiere che mi ha portato alla pensione, facevo un'altra attività, e cioè facevo l'antennista come mestiere, e l'ho fatto per tantissimi anni. E per cui certe cose adesso le capisco. Per dire, no? Quando tu magari parli con qualcuno e gli dici, anche nella televisione, nell'antenna della televisione ci sono le stazionarie, qualcuno domani per presto, e chi trasmetti di Google, no, non devi trasmettere, però le stazionarie ci sono lo stesso, strano, no? Eppure ci sono, quando un impianto non è fatto a regola d'arte o altro, sembra strano parlarne, ma è così, te lo posso garantire. Però chi non si muove la situazione, no? Guarda, ce l'ho qua nell'apparecchio, va. 1 e 1. Guardare qua, ma 1 e 1 è stazionario. E di uno è ultimo, è il segnale, cioè il massimo. Oppure quando sento qualcuno stazionare non ha niente, no? Non ha nemmeno uno. E allora caro amico mio, io non te lo prendo, ti lascio parlare, però l'antenna deve avere uno e uno. Quella è l'eccellenza dell'antenna. Uno e uno, perché nascono tutti per quella valore lì. Da poi quando qualcuno mi dice no, non c'ha nemmeno uno, manco si muove, e allora vuol dire che ancora che cosa non è perfetta. Questo te lo posso dare, però io ascolto e basta, al massimo sorrido in me stesso, però certe considerazioni me le faccio. Ma cosa ti penso? Che tu non hai compreso niente ancora di cavi e di antenne. Io questo te lo posso dire senza nessuna presunzione a tu. Capa, almeno uno e uno ce va bene. Poi se non hai, vuol dire che è accorciata. Vuol dire che farà accorciatore inserito. Ma niente non esiste. Io uno e uno ce li ho così da stazionare. E vanno bene. Vanno bene perché innanzitutto con l'alta potenza non ti dà nessun tipo di problema. Non ti dà. Perché più è stazionaria e più va male, cioè più non è, abbassa anche la potenza con più stazionarie più alte. Sì, beh certo, c'è più dispersione di segnale, certo. Se hai le stazionarie più alte, più alte sono e più dispersione hai, certo, come così. Comunque l'uno e uno è l'ideale, è così che deve essere, cioè il massimo della perfezione. Poi può andare bene anche uno e due, può andare bene anche uno e tre, per carità, niente da dire. Però se uno e uno è meglio, perché la massima perfezione è uno e uno. Questo è fuori discussione. Però, ripeto, magari per qualcuno vuoi avere il pensiero, ma questo può fare un professore, come a qualcuno qualche annetto fa l'avevano detto così, l'avevano detto. Non gliel'hanno magari detto in faccia, però la voce era uscita. Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo certi argomenti, ripeto, alle volte non si possono fare, o meglio devi stare attento a quello che dici, perché c'è sempre qualcuno che ha la lingua biforcuta e ti criticheggia tutto lì, anche sapendo che sei nel torto, perché mi finita la partita, sentite i tre fischi che ti stavo dicendo poc'anzi. Professore, beh, sono un professore, non era un problema, forse ne sono più di te, per me è così la situazione, per gli aghizzi. No, io questa qua, prima di tararla, aggiungerà dei nonchi trentumi, prima di salire da su, me l'ho messa sul lucernaio, piano piano l'ho fatta, perfetta l'ho fatta. Quando mi sono accorto che era perfetta, allora l'ho salita su, se no, no. L'ho fatta proprio alla perfezione, l'ho fatta. Ho chiesto, è fatto bene, è luce, quando lavoro è fatto bene, viene apprezzato, non ci sono dubbi. Quando invece è fatto un pochino così coi piedi, non con la testa, allora c'è poco da apprezzare, è sbagliato e basta, è tutto lì, niente lì. È così, vabbè, dai, vediamo un po' se rientra Claudio, ma in cucina sì. C'è il telefono, dai. Forse al telefono, quanto? Che ore sono? Sono già le 8 sono. E allora è quasi ora di cena, quasi ora di cena, ancora non mi hanno chiamato, evidentemente non è pronto. Non è ancora pronto, ma solo questione di qualche minuto comunque. Avanti Antu. Sì, raga, perdonatemi, ma mi ha chiamato il mister al telefono, una cosa allucinante oggi. Dai, nel frattempo vi saluto e vi auguro buona cena a tutte e due, che io mi sposto in cucina, che c'ho gente. Già ci sentiamo più tardi, Antu, se coincide, sono domani, ok? Ciao Cla, ci risentiamo, avanti Giulio. Ok, ciao Cla, a domani dai, a fare quattro chiacchiere anche domani, se coincide, ciao, salutoni e buona cena. e saluti in casa, ci sentiamo. Capito tu com'è la situazione, però ripeto, come ti ho detto poc'anzi, tante volte questi discorsi sarebbe stato bene farli, anche perché ognuno di noi, e io ascolto a te, tu ascolti a me e impariamo di più. Se invece ognuno di noi certe cose non le mette in atto, non le mette in pratica, io ignorante sono, in materia ignorante rimango, capito com'è? Se invece ascoltiamo le idee degli altri, così con passione e con serietà e ben fatte le discussioni, è tanto di guadagnato per tutti, Antu. Cappa, e ho che è giunto un amico, bellissimo Rosma e Troè, cavolo, le faccio anche i complimenti, se pure l'ascolta lui già sa di chi sto parlando. Veramente complimenti, bellissimo Rosmetro, bello, con gli strumenti, quelli belli con aghi, professionale, proprio professionale. L'ha misurata in cantella, è rimasto, cavolo, 1-1 proprio, e quasi in tutti i canali. Sì, ma me lo posso immaginare intanto. Di chi stai parlando me lo posso immaginare. Io con quell'amico molto, molto spesso quando è necessario facciamo delle chiacchierate a riguardo proprio di certe questioni tecniche di trasmissione, di antenne e balle varie, ma non è con tutti che puoi fare certi argomenti, perché non tutti sono disponibili per fare certi argomenti relativi a quello che è la tecnica elettronica o la tecnica di antenne, eccetera eccetera. Ti capisco benissimo, Antu, e sono consapevole, anche convintissimo di aver capito di che stai parlando. Avanti, riprendi. Cappa, chi sa, mi è uscita proprio la prima, chi sa, mi è uscita bene, mi è uscita, è meglio così, dai. Che cosa che ha, lo sai, altra appena quando piove sale un pochettino le stazionare, ma non li fa nulla, ma alla fine ci puoi modulare, no, non è un problema, capito? Sì, ma quello può succedere a tutte le antenne, no? Quando piove alle volte basta un minimo di infiltrazione e potrebbe succedere, ma non niente di particolare, va ugualmente bene, perciò non c'è problema, dai. Non c'è problema nella maniera più assoluta. Ok, dai Antu, io ti lascio, sono già le 8:05, per cui scendo giù per la cena, dai. Intanto sono sicuro che adesso mia moglie ha già anche apparecchiato, solo che ancora non mi hanno chiamato, ma è solo questione di qualche secondo o qualche minuto al massimo, niente di più. Io ti ringrazio per la chiacchierata, ci sentiamo eventualmente domani, avremo modo magari di discutere ancora di certe situazioni, anche di tecnica eccetera eccetera, e dopodiché è bello fare radio in questa maniera, non solamente dicendo quanto disoccupato vendi, guarda questo microfono, ascolta e dalle. Ecco, sono argomenti, sì, si fanno e si danno questi controlli, però è meglio farne meno possibile di queste cose, e fare argomenti come si deve. Fare radio si intende quello, fare argomenti validi, no i giabidui, a baita vaganto di giocare vendi, aspettami pure il vostro microfono. Tutte cose accettabili, per carità, non, nessuno dice di no, però alla lunga anche stanca, no? Vabbè, ciao Antu, grazie ancora per la chiacchierata, saluti in casa, buona cena, quando la fai ci sentiamo eventualmente domani, ok? Ascolto il tuo finalino e dopodiché chiudo definitivamente per oggi, ok? Vai Antu. Ok Giulio, salutoni e ce la risentiamo tutta quanta alle prossimine. Ok, ciao di nuovo, ciao alle prossime. E ya, ciao, dai che adesso vado a mangiare. E pure no che ha suonato mia moglie. Sì, ho all'amico che mi ha mandato il messaggio, vabbè. Va bene così. Sì, beh, io ho voluto fare quell'avvicinamento così per chiarire un po' la situazione. Ciao comunque anche a te, buona cena, dai, ci sentiamo domani eventualmente. sono d'accordo con te e confermo quello che ho detto. Niente brudino è meglio pasta asciutta, perciò non facciamo brudino, ci sentiamo, ciao ciao. Conferma. Ah, vediamo domani, se Domani è bella giornata, domani ci sono 20 gradi. Domani mattina io non ci sono. Domani siamo fuori a pranzo, anche io. KK. Meglio così. Ma io devo fare un paio di commissioni presto, domani mattina. Devo portare, devo consegnare queste radio, questi baracchini, e poi andiamo a pranzo al ghetto. KK, ma il DAC è venduto a calare? Sì, il DAC è partito venerdì. Ah, oh, ho capito. Ad enorme in San Radio. Ho dovuto accorparmi il trasporto, purtroppo. Vabbè, non fa niente, già me l'hanno pagato bene. Capa. Ebbè, se non me ne avevi pagato, non me ne avevi dato, grazie. Vabbè, certo che non avrei dato, se no avevo una bella offerta, non ho fatto la buonissima offerta, e l'ho dato. Hai fatto bene. E si conferma? Adesso questi baracchini che sono rimasti domani mattina li porto a una persona, così li custodisce lui e basta. E io tengo il Galaxy e poi appena arrivo al 4.30, ma ho già tolto tutto da qua, non c'è problema. Già me l'hai detto, già. Già mi tolto tutto. Piano piano, mamma mia, ho già troppo. Si vede la troccato, devo comprare tutto nuovo, io già devo la troccare. C'è l'altro da troccare niente, non altro, pochissima roba. Ah, devi comprare la roba nuova. Allora, io già devo pulire. Sto arrivando la casa nuova, ti pongo i mobili vecchi. Allora fai bene. No, questi c'è poca roba, il salotto che l'ho comprato nuovo da poco. Salotto soggiorno e tavolo con le sedie, la cucina, questa era quella di mia suocera, quindi la butto via, le camere da letto sono nuove, quelle là, queste le porterò a Portobello, e diciamo, c'è tutto nuovo, tutto. Sto lì a cincischiare, già te lo dico di persona. E allora fai prima, mi. L'agito la carichi vivo più a bugani e roba da vendere armati, smontare i mobili, a parte il fatto non smonto niente, io c'ho una ditta specializzata, fa tutto lì. Fai bene, fai. Avrà fai, che fa truccati lo gordo. Grazie un po'. Ha truccati lo gordo, ha trasportato mobili, lui, ma non esiste. Vabbè che c'è una ditta specializzata, però cavolo. Non si può stare a giambre e balle. No, il figlio di Angelo, l'ho detto, l'ho letto, il figlio di Angelo Dau, si arrangiano loro, fanno tutto loro. Ma già riconosco, già. Sì, Dau, trasgruppi. Figlio di Angelo, ci conosciamo. Ho fatto anche un buon prezzo. Si imballano tutto loro, fanno tutto loro. Ma dove vanno da io? Già andano in così. Hai capito perché mi sto liberando questa stanza? Di questa me ne occupo io. E boh, qua non deve toccare niente di su. È già tutto per terra. E domani faccio due viaggi e ci porto già tutto via. E lascio solo qua. C'è solo questa base. E c'è il Galaxy e boh. Capito? E basta. Il resto porto via tutto. E poi mi occupo di smontarmi le antenne, ritirarmi i cavi, quel così. Il resto si arrangiano loro, già mi la fatta sempre. Appunto, malissimo. A me questa parte mi interessa perché già lo sai. Sicuro che toccano che fascia tutto, quindi no, non devono toccare niente qua. La malangio io. Anzi, diciamo che so che ho quasi finito, quindi mi ho già svoltato l'armadio. Messo tutti i portatili, i cavi, i cavetti, i microfoni, le cassettiere, tutto. È già tutto pronto, domani porto un paio di viaggi e porto via tutto. E chi sono le roba ducaretti, no? Chi sono le roba che ti impone a porto tu? E li già messo a posto, tutto. Non problema, già tutto pronto, già tutto intaccato. tutto già sigillato. E poi le radio che... sono rimaste, baracchini sono rimasti, quelli devo dare a una persona, li gestisce lui, ed è una cosa che ci tengo in particolare. Ho capito, tiene lui e via, gestisce lui. Certo che sì, non devo stare lì a portare niente appresso, nulla. Due radio, poi ti ripeto, te l'ho già detto, non voglio ripetere la stessa cosa. Prima un bel sondaggio, dopodiché se mi piace ripiatto l'antenna, se non mi piace auguro a tutti un buon divertimento, basta così. Papà, vabbè lo vedi un po' là, vedi un po' com'è. Ma io non andavo di piazzare anche che provvisoriamente quel di Polo, non è troppo umano. No, c'ho l'altro di Polo, io quello piccolo. Già funziona, attacco, rimango in ascolto un po' di giorni, un po' vediamo, se ritorna tutto alla normalità va bene, se no, te l'ho già detto, l'ho detto anche stasera, no, non gli ho più voglia di stare a bisticciare con la gente, tutto quanto, comunque, parliamo di altro, va bene così, vediamo un po' se c'è Tino, Tino, è ancora tagliando i ranchi al buchino. Vede, ma sì. Non ci vediamo, stava rientrando. Ma sì. Ma sempre dal telefono l'ho sentito squillare. Luca Perivella. Luca Perivella. Bombolino in bicicletta. Alberto, aggansato, dici. Antonio, bicicletta. Via, eccomi qua. Ehi, qua sogno, sogno, qua sogno. Non c'è problema, non problema. Se vuoi andare a 10 andiamo a 10, non c'è un problema. Se ci vuoi rimanere qua, rimaniamo qua. Per me, io ripeto, ribadisco, c'ho 40 canali che posso girare e andare nei miei bar e miei piazzi. Tutto il resto è noia. Ma no, no, per me non c'è nessun problema, no, non ho nessun problema per me, ci mancherebbe. Ma sei? Sì. Scusa, stavo ascoltando un audio. Ah, figurati, per me ce ne sono zero problemi, a me piace stare un po' sui canali alti adesso, poi, ti ripeto, c'è più, meno QRM, meno tutto, e soprattutto meno casino. È troppo trafficato questo canale 10 diventato, quindi poi vabbè, tutti i canali sono di Dio, non c'è problema. Tino sta mangiando, Massimiliano non si sente, come nessuno sta girato, vabbè oggi è sabato. Ma non è neanche quello, cioè uno può trafficare e... ci sta, per carità, non è che ognuno dice la sua, ma a me mi si è ricato legando come teggiare pufufà, pipipì, e tante cose, pernacchi e cose, quelle non fanno bene, uno se traffica e cosa, cioè no, non è un problema, però l'educazione, cioè, quelle persone che fanno quei pernacchi, quelle cose, no, non vanno bene quelle, poi del resto, ognuno può esprimere quello che vuole. E si conferma, abbiamo già parlato, stavi parlando anche con Giulio stasera, ma infatti, siccome nel 10 sta trafficando un bel di gente, anche estranei, non da Sassari o da Sassari, non lo so, poco mi affutta a me. E quindi c'è troppo traffico di gente che disturba. Ecco perché io ho detto, ah, saliamo un pochino più in alto. E come vedi qua è un po' più tranquilla perché ancora, come ti ha detto Giulio, nessuno sa che ti sei spostato. Magari dovete vedere che ti sei spostato. Tutti vogliono infatti. Tutti. tutti sanno che siamo qua e tutti vengono a disturbare, ma non nel senso disturbare perché non voglio parlare, cioè, ma i disturbatori, mica, la gente che era nel 10 che disturba viene anche qua a disturbare, capito mi hai? Però io mi sono abituato, cioè, se ci sono disturbi appena spengo la radio me ne vado, non mi interessa, non... basta così, però se no questo mi diventa non più rilassamento, diventa un'incazzatura, io. Però io ripeto sempre, queste persone qua bisogna anche farle finire, perché no, non esiste che tu vai a rompere le scatole al prossimo, no. Per me non esiste, poi no. Bene, da che mi su fu, da qualche parte sarai, cioè l'ho molto finito da un'ora, io non temo nessuno, e non temo a farglielo. Ma perché fare queste stupidaggini, Bruno? Veramente io non riesco a capire, cioè usi i pendolini a comprarsi la radio e a fare un macco, ma che senso ha? Quello che gira le balle è quello, capito? Io ho fatto tanti sacrifici, io non ho bisogno di fare sacrifici per le radio, ne ho a bisefa, non è quello il problema. Però alla fine mi sono stufato anche io, ne ho staccato tutto, ne ho attaccato solo una, approfittando del fatto che devo andare via da qua, quindi mi sto già preparando tutta la roba, però dico, alla fin fine, con una radio ti diverti, non c'è bisogno di comprarne tante. Non c'è assolutamente bisogno, io le ho tutte date perché tante attività, come facevo prima non le faccio più, quindi mi bastano due radio, sono più che sufficienti, un baracchino come questo completo e il solito HF della Kenwood, basta. Le altre tutte date, tutte vendute e anche regalate, tutto qua, capito mi hai? KK. L'ascolto, ma boh, no, non mi piace, no, non vedo da io là, no, non mi piace. E cosa vuoi, un veicolare voi? Casa me è vuoto. Ah no, pisciavo. Pisciavo il veicolare, io ne ho tolto anche il PMR, figurati. Mi domani mattina sono incasinato perché devo andare a portare questa radio a casa di una persona, questi baracchini che sono rimasti, tutti questi baracchini. Poi devo appena, subito mi libero, a mezzogiorno devo essere a casa immediatamente, perché a mezzogiorno e mezzo dobbiamo partire per Alghero. E poi domani sera, niente, domani sera quando rientro mi riposo e me ne sto a casa, basta. Però lunedì, se fa ancora bella giornata, ma salgo sul tetto, non voglio rotture in palle nessuno e mi tolgo tutte quelle cose ancora che sono rimaste, quel dipolo, quei tubi, quell'antenna piccola VU del PMR, e mi tiro sui cavi, lascio solo il cavo della Mantova e mi tiro sui cavi, non li vado di cavo, li stacco dal commutatore esterno e li tiro su e li conservo e basta. Mi ha giovenito, mi ha detto, perché le radio sono già tutte imballate, tutte pronte, quelle che devo portare via, quelle che devo dare a questa persona domani mattina, le metto in macchina e le porto, basta. Due elementi, quella, corretto, vuoi dire dopo, non c'è un problema, figurati. Se ti serve il cavo, se non basta quel cavo, lo mettiamo direttamente tutto intero. A futti di dire qualcosa già la facciamo, lo sai che io non sono di quelli che... Non ho mai negato niente a nessuno, altro, te l'ho promesso e te lo faccio. Adesso lasciami liberare il tetto, appena libero il tetto, i tubi che ci sono te li do, così li conserviamo e appena abbiamo tempo li piazziamo. Quanto sono lunghi? Sono 2 metri più 2 metri. Ma passerebbe quello a 2 metri? Tanto 2 più 2, non è problema. È un 4 metri telescopico, capito? E si fa lavoro fatto bene, se poi hai bisogno di tiranti, ne ho tiranti, c'è una matassa di nylon, da, adesso non mi ricordo se da 3 e mezzo, da 4 e mezzo, da 2 e mezzo, non so, comunque ne ho, c'è una matassa da 50 metri, c'ho tutto quello che serve per fare un impianto nuovo all'antenna, tu non ti preoccupare, c'ho cavo nuovo, ti ho detto, se vuoi mettere... La Camille, mettiamo la Camille, li buchiamo liscio. Ehi, mi ammazza di roba. Cappa. Come si dice? No, ti spiego come volevo farlo io. Volevo fare come è adesso, agganciato. Però con un tubo che sale un po' più su, capito? Cioè, io ho il tubo grosso, sentendomi sai com'è, com'è fatto. Io ho il tubo grosso, ho 2 di quelle staffe che agganciano, di quelle staffe da tipo ringhiera, hai capito? Che agganciano i 2 tubi e via. Io volevo metterci un tubo un po' più in alto, un tubo, c'è già questo piazzato, e poi allungare con quel tubo lì, con quello da 2 metri, e stringere quelle staffe lì. Tu c'hai quelle staffe che stavi chiedendo a me, quelle palo palo, giusto? Sì. Ok. Quindi, siccome tu ne hai 2 di quelle staffe palo palo che tengono il piantone e poi tiri su, noi cosa avremo? Ne buchiamo gli sci 2 staffe palo palo. Innesto il tubo come avevo fatto da Natalino con quello che c'ho io leggermente più grosso, poi aggancio le 2 staffe palo palo all'altro e tirato. Ma vuoi fare così? Però non voglio, perché siccome è un po' così, non vorrei mettere roba troppo pesante, perché sennò devo irrobustire sotto il piantone, capito? No, noi mettiamo roba pesante, usiamo tubi leggeri ma consistenti a tutti. Non si preoccupi lì, faccia fare a zio Claudio. Così ne farà tutto prima. Io ho imparato prima perché ho abbassato la potenza, intanto non serve a niente. Avevo a 15 watt, ho messo a 5 watt. Non è vara nuda, Matteo, tranquillo, non è vara nuda. Tranquillo, di quelle staffe ne ho altre 2 io, palo palo. Le rinforziamo, capito? Ciao, ma basterebbe una... qualcosa così, dai, basterebbe un po' più in alto, mi la voglio mettere. Non la sai, un po' di più in alto, sicuramente mi basterà. Giusto per uscirci un po' più dal palazzo. E una saetta si mette lì dove sono quelle 2 staffe, non ti preoccupare, già ho capito cosa vuoi fare. Si mette una saetta, si aggancia, si tira su, altri 2 metri, 2 metri e mezzo. Lo lasciamo dentro il tubo anziché eliminarlo, anziché fare 2 più 2, ci fa per dire 1 metro e mezzo, 1 metro e mezzo, e tirarsi di 3 metri. Abbasserà, a voglia. Vabbè, se non basta lo tiriamo ancora più su, l'importante è che elimini il palazzo, no? L'ostacolo che hai lo elimini. Cappa. Perché sono coperto, mi sono accorto che sono coperto nelle zone basse. Tipo molto d'ora. Sì, già vado, Però c'è un pochettino di copertura in più. Sì, ma tanto. Quella radio ce l'hai sempre a 10. Sì, sì. Allora, quando parli con Porto Torres o parli con Furi, a 10 la lasci dentro Sassari, quando parli con Furi fai più 10, metti la linee in più, allora la musica cambia. Sì, vabbè, ma se devi parlare con fuori, segnale in basso, dalle 10 va in più, non ne fa niente. Io quando avevo la mia, la usavo sempre a 20 di portante multa, intorno ai 40-50 modulati. Quella io non la conosco, se ti hanno letto così, usala così. Però se le dai 10 watt in più quando stai modulando non succede niente. Poi ti devi ricordare chiaramente di rimetterla com'era. Capo, molto volte ne do 5 in più, ma non di più, Anche 10 ne puoi dare, non succede niente a tu. La giuda va da Zanni, che sa radio. Missa, non quella lì, uguale a quella. L'ho sempre usata così, chiaramente non l'ho mai sfruttata, l'ho venduta a uno di Porto Torres ed è contentissimo, però l'ha presa da me perché si fidava di me, giustamente, capito? Perché, ripeto, prendere radio così su internet bisogna stare molto molto attenti perché ti possono fottere. Se te la mandano che non è revisionata, non è a posto, ti dura un anno, poi te la gli dà mai. Quindi è così, capito? Vabbè, comunque, ripeto, quando uno è soddisfatto e contento della cosa che ha, siamo contenti tutti. Segnale perché è proprio omologato, però allora come Goku. Fai bene, 9,10 abbondante, sì, con l'altro i 9,25 quasi, vabbè, qua c'è più potenza, normale. Cappa del Roggero, l'onda di manco di qui, non pensare che mi sto, che ci sono molto, mi sono entrato a farti un po' di compagnia, fra un po' spiego tutto, vado a guardarmi un po' di TV, davanti a me alzo presto, devo sistemare un po' di cose, devo scendere prima in campagna, a portarci questa roba, poi devo salire, sistemarmi il cane e poi devo andare a portare a consegnare queste radio. Ed è partita la domenica mattina, non c'è più. Sì, già me l'hai detto già. Via. Cavolo, è proprio omologato al minimo della potenza, proprio quella è necessaria. Già va bene lo stesso, dai. E quindi i muovi che sono rosmetro, niente, proprio stazionarie, non esistono quasi. Eia, gappa, no, neanche qua ce n'è, stazionari, uno rapporto. diciamo così. Vanno bene, vanno bene. Ottimo per la truppa. KK. E domani hai detto che devi andare a fare picchinicchi. Sicuramente sì. Sono come parente la biastra. La biastra? Ma corrente, andate l'attacchi. Cosa corrente? Cosa corrente? Guardi una biastra da gas, guardi. Allora, c'è una cucinetta con quelle bombolette lunghe da mettere. Sopra mi hanno regalato due piastre, una vabbè la sto usando qua, e una me la uso quando esco così. Io voto domani a Manzano, voto di usare Cizzone, arrodurato becco, da poco tra borsa a frigo, e da poi me lo cuzzineggio. Ah, quello arrotolato con lo stecchino, dopo nella piastra, e sciucchi andiamo. Ti mando le fotografie, ti mando. Ehi, manda, ma le sono curioso. No, noi siamo da Alghero, la mia sorella, a pranzo. Mia sorella c'ha la casa lì al Lido, quindi siamo di fronte al mare, non c'è problema. C'è bella giornata, devo portare anche il cane. C'è bella giornata, non manco così di guglieggia, Pippo domani, poveretto. Speriamo da cantarlo, chi cava una volta che andava in spiaggia a fare un voce la terra, si sottarreggia, burro, zessie le quattro. Ah, di chi si è? E mi aghero, dobbiamo... Tra un po' di tempo dobbiamo andarci a farci una passeggiata. Morellino il cagnetto, li piace così a Edo. Ehi, poco si diverte. Poco si diverte per l'uomo, ragazzi, mia figlia. No, no, ma io scava, Edo scava. A voi si sta intrattando la voce e si cocca. Cazzo, è una cosa allucinante, per carità. Io ho fatto così, era un lupacchiotto, Io pensavo che era un cane più umano, di chissà cosa. L'ho visto, ma non era, cioè io me lo pensavo così. Bravo, poltrone, Ma poltrone, poi ci metteva la faccia, se lo prendete le faccia deve alzare lì. È tutto muso, è tutto barri, ma è abbastanza muscoloso comunque, già sta bene, nonostante abbia 8 anni, poverino, cioè. Ogni tanto vorrei qualche pastiglietta per l'artrosi, per le ossa, domani le aspettiamo, una volta alla settimana la prendo, perché è un bel forte, ma va da veterinario. Veterinario che poi è anche proprio specializzato in queste malattie così alle ossa, capito? Vabbè. No, ma si diverte un bello di spiaggia. Ehi, poi i miei nipoti sta sempre correndo, andando e tornando, a voi. Quando rientriamo in macchina, c'è il plede nel sedere dietro, boom, si drome. E sorraggeggia, mica Sassari, sempre sorraggendo Sassari. Prone, fatto Lucia. Ma poverino, le artrosi c'hai. Ai ai ai. Non è neanche vecchio, no, vecchio. Ma vuol dire che inglese soffrono l'artrosi. Tanto lui dorme col plaid, la copertina, estate e inverno. Per avere il caldo sulla schiena, capito? Per le ossa. Quando piove non lo porto mai in mezzo all'acqua, manco i piedi le faccio bagnare. Lo tengo sotto il porticato da me, fa una discesa, una salita, fa la pipì, poi nella terra la sporca, la raccolgo, capito? Non lo faccio bagnare, perché mi fa un bel male l'umidità. Sì, ha avuto anche un'ernia cervicale, capito? Però l'abbiamo curata, adesso un po' di acciacchi le sono rimasti, ma comunque già tira avanti poverino, non può saltare, non può fare, nonostante lui si metta, gioca, mi salta, fa, per quello non le faccio fare le scale a piedi, ho capito? Sempre in ascensore, una volta siamo rimasti troppo. rimasto tutto il giorno fermo l'ascensore perché si è rotto un pezzo elettrico, elettronico. A scendere lo facciamo salire, scendere perché già scende. A salire l'ho preso in braccio, perché sennò si fa male, capito? Poverino. Vabbè. Cosa vuoi fare? No, non ce la fa più, è meglio così. Appesa. No, 28 kg pesa. Già va bene, va. Ehi, è matto anche a 32, 33, quasi 35. E proprio a causa del peso stava iniziando a farsi male la schiena, la veterinaria mi ha detto l'ha messa a dieta, abbiamo tenuto quel regime, mi ha detto non deve salire più di 26-27 kg. E adesso vabbè 28. Prima mangiava due volte al giorno abbondante, poi a cena si metteva davanti, ma era un po' di frutta, un pezzo di pane, qui e là, adesso niente, nulla, mangia solo a pranzo e boh. È meglio così, sennò diventa troppo grasso. Diventa grasso e poi non ce la fa camminare, anche perché adesso va incontro al caldo, lui soffre il caldo, capito? E quindi ancora peggio, tutto qua. Va bene, Antorai, che sono le 11, devo di lasso, adesso mi preparo questa roba, la tengo già pronta, la metto all'ingresso, così domani mattina avvicino la macchina sotto il porticato, carregheggio tutto e se vado tutto in campagna. Dai Antor, ci aggiorniamo domani, ok? Buonanotte, grazie alle due chiacchiere, se c'è qualcuno all'ascolto, buonanotte anche a lui. A frappè, a domani, ciao! Ok, dai, buonanotte, e pure io mi sono saputo rumente. Ciao, buonanotte, cla. Ce la sentiamo domani, ciao, ciao. Ciao, ciao, Anto, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltoni.